con l'autore e attore Daniele Parisi. Daniele, ben trovato. Eccoci, eccoci. Quarticciolo, Quarticciolo, torna in scena Ai Vuoi, che è il mio ultimo spettacolo che tu hai visto, tra l'altro, lo scorso anno al Teatro Vascello, quindi torna in scena per 2 serate, il 12 e il 13, e quindi si riparte da lì, insomma, per andare poi di nuovo in un teatro che sta qui a Roma, perché lo spettacolo l'ho portato un po' in giro durante quest'anno, e quindi tornare dopo un anno a Roma è una grande cosa, perché è il risultato anche di un'evoluzione sul palco. Spettacolo comico, one man show, sono da solo, ed è il mio quinto spettacolo. Viene annunciata l'Apocalisse, c'è un uomo che si fa bandiera di popolo, che arriva e grida al popolo che sta finendo il mondo. Viene annunciata un'Apocalisse assolutamente farlocca e surreale, e a un certo punto però, mentre succede tutto questo, un uomo va sotto la finestra della propria amata e la chiama, e lei non risponde. E dal palazzo si affacciano degli esseri umani che commentano non solo la sua condizione, ma anche la propria, di fronte alla fine. Quindi viene preso in considerazione il concetto di fine, sia dell'umanità che di un amore. E quindi, se è vero che, come faceva Dante Alighieri, no? Metteva Beatrice in paradiso, no? Una volta stabilito che ci sia Dio, no? Allora in paradiso c'è l'amore. E se non c'è Dio, se Dio non risponde, allora non risponde neanche l'amore, allora forse l'amore neanche c'è, forse è un'invenzione, no? È questo che si pone lo spettacolo, sempre in chiave assolutamente tragica e comica allo stesso tempo. Allora, Daniele, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede da qualche parte. Benissimo, benissimo, a presto. Ciao, ciao.